si è scoperto che l'espansione accelera, per esempio, e non sappiamo. È molto aspra sui rapporti tra la scienza e la società. Da poco tempo fa le applicazioni della scienza. Il gas è lo stato più semplice in cui si trova la materia. La libertà di poterlo ridistribuire e modificare. La cultura scientifica, voglio dire, è qualcosa di immenso. Al fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fujiko. E sono le 10:30 di questo sabato 17 gennaio 2009 e benvenuti ad un'altra puntata di Caccia al fotone. Prima puntata del nuovo anno. Come al solito all'inizio i contatti 333-180-9494 per inviare un sms e cacciafotone@radiocittafugico.it per inviare una mail. Sito di riferimento www.cacciafotone.it. Prendendo spunto da una ricerca appena pubblicata dal professor Simon Baron Cohen, proveremo a parlare di una delle disabilità più importanti degli ultimi tempi. Stiamo parlando dell'autismo. E per parlare di autismo ne parleremo con la dottoressa Mariani Cerati, segretaria del comitato scientifico dell'ANCSA. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Dottoressa, all'inizio normalmente abbiamo 100 parole iniziali, quindi a lei la parola. Quando parliamo di autismo come disabilità, parliamo di bambini che presentano prima dei 3 anni di vita dei deficit qualitativi nell'interazione sociale, nella comunicazione verbale e non verbale, e se parliamo di bambini molto piccoli soprattutto l'interazione, la comunicazione non verbale fatta di sguardi, di gesti, di tono muscolare, e ristrettezza negli interessi che sono appunto limitati e a volte bizzarri. Ecco, questa è la disabilità, che appunto si chiama autismo e che continua anche nell'età successive. Possiamo invece parlare di tratti autistici nella popolazione, e questo è stato l'obiettivo dello studio di cui parliamo, in quanto nella popolazione esistono persone con un alto indice di empatia, di socialità, e altre che hanno un indice di empatia, di socialità minore, pur essendo normali, e magari hanno più sviluppati l'amore per la matematica, per altre cose. Benissimo dottoressa, teniamoci in caldo perché subito dopo il pezzo musicale torneremo a parlare di autismo. Nella prima parte parleremo di autismo come disabilità e nella seconda parte invece parleremo espressamente di questa ricerca pubblicata poi il 12 gennaio sul Guardian. I think friendship, I think love. bentornati a Caccia al Fotone. In questa prima puntata dell'anno parleremo di autismo con la dottoressa Mariani Cerati. Cominciamo a descrivere un attimo questa abilità, quindi effettivamente che cos'è l'autismo? Poi l'abbiamo cercato di spiegare nella prima parte, nelle prime 100 parole, però diamone una descrizione un pochino più completa. Allora, partiamo da quello che sono i primi sintomi dei bambini piccoli. I bambini piccoli hanno una socialità estrema anche fin da subito, fin dal primo anno di vita. Ad esempio, quando una mamma prende in braccio il bambino collabora attivamente a essere preso in braccio, favorisce, il suo corpo si inarca, c'è come un dialogo tonico tra i due. E poi esiste tutto un dialogo fatto di sguardi, ecco, ed esiste l'interazione sociale, il piacere di condividere un'emozione, guarda l'uccellino, magari anche un bambino che non sa parlare ma indica, segna, ecco, tutte queste cose sono deficitarie o carenti, non dico assenti, nel bambino autistico, che per esempio la mamma lo prende in braccio e ha quasi l'impressione di prendere in braccio una bambola di pezza, perché non collabora tanto a questa interazione primitiva, appunto, tra il bambino e la madre. Lo sguardo è uno sguardo un po' assente, ecco, ricorda un po' lo sguardo di Mona Lisa del Leonardo, sì, di Leonardo, con uno sguardo così un po' perso, ecco. E quando viene fuori il linguaggio, che anche dei bambini normali ovviamente non esiste nel primo o secondo anno di vita, comincia a 2 anni, a volte è un linguaggio molto strano. Per esempio, il bambino invece di dire io dice il proprio nome, Paolo fa questo, e l'io fa fatica a venire. Invece di rispondere ti piace questo, risponde con la frase ti piace questo, e fa fatica a dire sì, anche se poi nell'evoluzione verrà fuori il sì, questa parolina così facile da dire, ma che implica una concettualità complessa, molto più che rispondere una frase. E però pur nel tempo il bambino è in evoluzione, però questo osso duro, diciamo, dell'interazione sociale, ha anche, pur cambiando il quadro clinico nel tempo, rimane sempre un'interazione sociale qualitativamente carente e diversa. Ecco, il gioco, che è la cosa più naturale dei bambini, è una cosa estremamente difficile per i bambini autistici, il gioco di relazione, lo stare insieme, il giocare a palla, lo scambio, ecco. Il gioco dei bambini va insegnato partendo proprio dalle cose più elementari. Senta, effettivamente quali sono le cause dell'autismo? Cioè, si è capito se ha delle cause genetiche oppure viene sviluppato attraverso altri fattori? Allora, diciamo che una cosa, sgombrando il campo da vecchi retaggi, dobbiamo dire innanzitutto che le cause dell'autismo sono al 100% organiche. Organiche. Perché dico questo in antitesi alle cause psicologiche, a quegli orrori, diciamo, di colpevolizzazione della madre, che fanno parte di un passato recente non ancora del tutto spento. Ecco, quando poi parliamo di cause organiche, naturalmente c'è un mare magnum. Ecco, per quello che riguarda la genetica, sono venuti in aiuto a chiarire qualche cosa di questo gli studi epidemiologici in generale e gli studi sui gemelli. Cosa ci dice l'epidemiologia? L'autismo classico, quello grave associato in gran parte a ritardo mentale, ha un rapporto maschi-femmine di 4-1. Se noi però passiamo ad un autismo più puro, cioè non associato a ritardo mentale e neanche a deficit del linguaggio, proprio in cui esiste soltanto un deficit nella socialità e nella ristrettezza di interessi, adesso si tende a chiamare questo sindrome di Asperger, il rapporto maschi-femmine è 9-1. E quindi da qui ci si è detti, è un fattore genetico anche questo diverso rapporto, cioè potrebbe essere coinvolto il cromosoma X, o è un fattore epigenetico? Che vuol dire fattore epigenetico, per chi non conoscesse, sì, certo, questo allora, termine? Certo, allora fattore genetico vuol dire i geni, quelli che sono contenuti nei cromosomi. Ok. Fattore epigenetico è qualche cosa che non è un gene, ma ad esempio in questo caso, perché siccome parliamo di un deficit molto primitivo, è molto importante sapere cosa avviene a livello prenatale, a livello della vita intrauterina. Per esempio, l'ambiente in cui è immerso, in cui vive l'embrione, l'ipotesi è che un eccesso o comunque ci sia una correlazione tra testosterone, che è l'ormone maschile, e un'interazione con i geni, quindi da un lato una suscettibilità di tipo genetico e dall'altro un'interazione, un'influenza con l'assetto ormonale in cui l'embrione è inserito nella vita prenatale. Senta, cerchiamo di esplorare un altro aspetto, visto che anche questo è un luogo comune sull'autismo. L'autismo alla fine è curabile oppure no? Allora, purtroppo diciamo che l'autismo nel tempo cambia, i sintomi possono cambiare, possono migliorare, possono diminuire, però diciamo che l'osso duro rimane nel tempo, rimane nel tempo. La parola curabile bisogna vedere cosa vuol dire, ecco, perché se vuol dire guaribile, ecco, allora dobbiamo dire stiamo attenti. Se invece intendiamo che con una educazione personalizzata che utilizza quelle tecniche di insegnamento che si sono rivelate utili, in particolare le tecniche prese dalla psicologia comportamentale quando il bambino è molto piccolo e molto compromesso, e poi dalla psicologia cognitiva quando il bambino evolve, possono diminuire i comportamenti indesiderabili e aumentare quelle abilità che sono utili per la vita quotidiana e in generale tutte le abilità che un bambino ha. Quindi compensare i deficit con una paziente educazione, e però insomma la ricerca deve fare molto molto molto per poter capire le cause, i meccanismi patogenetici e dare anche un contributo con delle interferenze di tipo biologico, ecco, che ancora purtroppo non esistono. Senta, le voglio fare un'ultima domanda per la prima parte. Prima parlava del fatto che approcciando con i genitori ancora c'è questo specie di retaggio culturale in cui i genitori o la mamma si sente colpevole del fatto che il figlio abbia la malattia. Come mai, secondo lei, questo approccio colpevole del genitore? Beh, adesso diciamo che c'è stato, io lo chiamerei un delirio collettivo, perché è una cosa assolutamente contro l'evidenza, che è stata molto forte negli anni 50-60, in particolare c'è stato un personaggio, Bruno Bettelheim, che aveva vissuto lui nei campi di concentramento e per questo è stato una vittima e gode della nostra solidarietà, però poi emigrato negli Stati Uniti ha riempito un vuoto di conoscenza, perché esiste un grosso vuoto, una grave disabilità di cui non si sa la causa, con una fantasia. La fantasia è stata questa, che il bambino era così perché la mamma si era comportata con lui come le capò dei campi di concentramento, e addirittura proponeva come terapia, una cosa che ci fa orrore, la parentectomia, cioè l'allontanamento del bambino dalla madre per curarlo, in quanto la madre sarebbe stata la causa del tutto. Insomma, sono cose che ci fanno veramente tremare le vene ai polsi solo a sentirle. E fra l'altro la cosa grave è che lui nel 1967 ha scritto un libro, The Empty Fortress, che poi nel 76 è stato tradotto in Italia con il nome di La Fortezza Vuota e ha avuto purtroppo un grande successo. E questo retaggio è anche duro a morire, ecco, anche se adesso insomma ormai diventa sempre più flebile questa corrente, però insomma è stata una cosa molto molto grave, che ha aggiunto al danno della natura un danno umano, ecco. Dottoressa, noi ci lasciamo con un pezzo musicale, poi ci teniamo in caldo, perché a questo punto proveremo a parlare veramente di quello che è apparso sulla stampa riguardo alla ricerca di Simon Baron Cohen e quello che in realtà voleva dire Simon Baron Cohen. bentornati a Caccia al Fotone. Oggi stiamo parlando di autismo e per introdurre la seconda parte della trasmissione sentiamoci un pezzo di un film veramente stupendo. Perché tu non lo sai, tu non lo sai. Io non so cosa. Tu non sai com'è quando ci provi e non arrivi mai a niente, ecco. Perché tu sei nata perfetta e io sono nato così come sono e tu sei perfetta. Ah, ma davvero? La gente come te non lo sa. E questo era un pezzo di Io sono Sam, film del 2001, mirabilmente interpretato da Sean Penn e Michelle Pfeiffer. In questa seconda parte della trasmissione parleremo con la dottoressa Maria Nicerati e parleremo fondamentalmente di una ricerca che è stata pubblicata prima come lavoro scientifico e poi come buttata giornalistica sul Guardian. Cominciamo a descrivere veramente come è apparsa sulla stampa. Allora, il primo punto è stato fatto uno screening su alcuni soggetti malati di autismo. Il secondo punto è che c'era un alto livello di testosterone nei soggetti malati di autismo e il terzo punto è che si poteva così cominciare una possibile diagnosi prenatale su coloro che erano affetti da questa sindrome. Ora, cosa veramente voleva dire Simon Baron Cohen? Allora, io ho davanti il suo lavoro originale che è intitolato Fetal Testosterone and Autistic Traits, quindi testosterone fetale e tratti autistici. Notare, non ha parlato della disabilità. Che di che cosa ha parlato? I 263 casi che lui ha studiato sono tutti bambini normali. Quindi pensiamo un po' alla differenza che c'è tra la fonte e come la fonte è stata digerita e messa in mano al popolo. Lui che cosa ha fatto? Proprio partendo da quello che dicevamo prima e che non ripetiamo, da questa osservazione di tipo epidemiologico, ha fatto in modo che chi faceva l'amniocentesi, le donne che facevano l'amniocentesi per motivi loro, no? Per motivi clinici, per i fatti loro, facessero su questo liquido di amniocentesi, si facesse anche un dosaggio del testosterone, quindi un testosterone in ambito embrionale del liquido amniotico. Okay. Poi cosa ha fatto? Ha seguito i bambini che sono centinaia, come dico che poi sono risultati tutti bambini assolutamente normali, somministrando loro dei test che lui chiama, lo dico in inglese, Childhood Autism Spectrum Test e Childhood Autism Spectrum Quotient, quindi test per lo spettro autistico, per il quoziente autistico, intendendo però come quoziente autistico non la disabilità, ma quel tratto della normalità per cui uno è meno socievole, più portato a fare dei puzzle che non a stare in compagnia. Tutto nell'ambito della normalità e ha fatto una correlazione tra i livelli di testosterone prenatale e questo quoziente, i bambini tutti normali, e ha visto che statisticamente, ma non sul singolo, solo come valori statistici, c'era una correlazione tra alti livelli di testosterone e questo quoziente di autismo, ma non per dire disabilità, per dire così, in empatia un po' minore, socialità un po' minore di questi 260 bambini. Peraltro alti livelli di testosterone sono stati studiati anche da altri studiosi nel corso del tempo, non è la prima volta che si vede un argomento del genere. Se lei pensa che questo studio, perché come studio è interessantissimo se uno riesce a leggerlo per quello che vale, è uno studio che parte, siccome i bambini che lui sta esaminando e di cui ha studiato il testosterone fetale hanno ormai dagli 8 ai 10 anni, cioè lei capisce l'interesse di fare uno studio longitudinale che prosegue nel tempo, quindi lui li ha fatti quando i bambini avevano 1, 4, 6, 8, 10 anni, appunto trovando questa cosa che diventa un diciamo un fattore, uno dei mille fattori di rischio, perché verosimilmente la causa, le cause dell'autismo è una disabilità multifattoriale, quindi ci sono tanti fattori che quando si trovano insieme danno la disabilità, quando sono in massima quantità, e magari danno invece dei tratti quando sono minimi. Ecco, ad esempio, proprio a Roma, nell'università Campus Biomedico, il professor Keller sta facendo degli studi di estremo valore, di estrema raffinatezza, su modelli animali. Dovrebbero essere modelli animali di autismo in cui si studi il rapporto appunto tra assetto genetico, tra alcuni geni in particolare e livelli di testosterone, e naturalmente l'animale ti consente di fare anche delle manipolazioni che non sarebbe etico fare nell'uomo. Ecco, quindi è una linea di ricerca molto interessante come linea di ricerca, se uno la legge per quello che è a livello internazionale, viene studiata a vari livelli. Ecco, Baron Cohen ha avuto questa idea, questa costanza, questa possibilità di seguire nel tempo, per tempi lunghissimi, dei bambini che continua a studiare, perché poi li continuerà a testare anche nell'adolescenza, nell'età adulta, come dico, tutte persone normali. Naturalmente si studiano le persone normali per avere delle idee anche su quello che può avvenire nella patologia, come dico, di questo tipo, e ci sono gli studi sui modelli animali, che naturalmente valgono per quello che valgono, ma nei quali si possono fare anche cose che non si possono fare nell'uomo. Peraltro c'è una conseguenza di non poco conto, cioè se tutto questo fosse vero, cioè se la ricerca fosse veramente al punto finale, questo vorrebbe dire che dovremmo sopprimere una quantità esagerata di persone. Infatti, come dico, io conosco Baron Cohen personalmente, l'ho conosciuto nel 1989-90 a Durham durante dei convegni. È una persona degnissima che, partendo dall'autismo, è passato appunto a studiare la normalità. Ma voglio dire, come è stato, e quindi apprezzo moltissimo il suo lavoro, invece sono inorridita da come la cosa è stata messa sui giornali, travisata completamente, travisata, test prenatale che ti potrebbe dare un'interruzione di gravidanza, per carità di Dio. Ma assolutamente, ma a parte che io non dico la strage degli innocenti, perché sono tutti innocenti, anche i malati, ma sarebbe una strage di gente sanissima oltretutto. Quindi insomma c'è stato veramente, è stato un esempio di cattiva informazione. Come abbiamo detto noi, c'è stata una netta confusione fra una semplice ipotesi di lavoro e una scoperta scientifica, effettivamente. Esatto. Proprio così. Poi nell'ultima parte della trasmissione proveremo a parlare degli sviluppi futuri delle cure per l'autismo. Noi mettiamo un pezzo musicale e poi ci sentiamo fra pochissimi minuti. Pochissimi minuti per la fine di Cacciafotone. E al 333-180-94-94 arriva un sms. E Marco che ci chiede: all'inizio avete parlato di un'associazione, l'ANCSA. Esattamente che cos'è l'ANCSA? Questa domanda la pongo alla dottoressa Maria Nicerati. Allora, innanzitutto la sigla vuol dire Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici. Faccio notare che si è messo soggetti e non bambini, per sottolineare che l'autismo purtroppo non è solo dei bambini, ma i bambini crescono e quando sono grandi possono aver avuto tante evoluzioni più o meno buone, più o meno cattive, ma l'autismo rimane e quindi i genitori possono essere anche genitori novantenni di figli con autismo settantenni. Ok. Dottoressa, ultime considerazioni sull'autismo. Cerchiamo di capire effettivamente come si sta sviluppando la ricerca sull'autismo e quali sono i filoni che sta seguendo la ricerca medica. C'è un grossissimo filone che è il filone genetico, cioè lo studio dei geni alla caccia dei geni che non si parla più dei geni che causano l'autismo, ma dei geni di suscettibilità. L'orientamento attuale, naturalmente basato su quanto si è fatto negli ultimi anni, è che non ci sia un gene che dà l'autismo, ma che ci sia una combinazione di geni più qualcos'altro che non è genetico che messi insieme danno l'autismo nelle sue varie forme, dal grave al meno grave allo sfumato. Con una piccola percentuale, 10-20% invece, di autismi da cause note. Ecco, da cause note che possono essere, che invece tra le cause note ci sono anche proprio delle malattie monogeniche, cioè una mutazione di un gene che può dare tutta la sindrome, ecco, come per esempio la fenilchetonuria, il deficit cerebrale di creatina, la sclerosi tuberosa, ecco, che danno conto di una piccola percentuale, ma comunque esiste anche questo. Dottoressa, è appena arrivato un altro messaggio 380-94 ed è una domanda di cui abbiamo parlato anche nel fuori onda. Sì. Non si firma, ma dice: è vero, come dicono alcuni studiosi indipendenti, che può esistere una relazione fra autismo e vaccinazioni con il mercurio responsabile? Di questo ne abbiamo parlato nel fuori onda, però le pongo questa domanda perché è giusto rispondere, visto che certo, in qualche modo se ne parla. Sì, se ne parla da vari anni. Allora, innanzitutto le vaccinazioni noi sappiamo che possono dare, in casi rari, una encefalite, no? L'encefalite a sua volta può dare come esito un ritardo mentale, un'epilessia e un autismo. Ecco, quindi casi di encefalite post-vaccinica, ma encefalite di solito con una febbre alta, con una fase acuta a cui segue una fase di residui, di esiti. Questo può esistere. Che poi l'autismo in quanto tale abbia una correlazione con le vaccinazioni è stata, diciamo, un'ipotesi che è stata perseguita negli ultimi decenni, proprio possiamo dire, e in particolare il discorso del mercurio attraverso un conservante che si chiama timerosal. Diciamo che come ipotesi era un'ipotesi del tutto lecita. Gli studi epidemiologici, che sono stati veramente molto numerosi, sono contro questa ipotesi, perché ad esempio in tante nazioni si è assolutamente eliminato il timerosal già dal 1999, 2000, 2001 e si è visto che l'autismo non è diminuito. Ecco, anzi, le diagnosi di autismo aumentano. E il fatto però che aumentino le diagnosi non vuol dire che aumenti l'autismo, e tutto questo è tutto da vedere se davvero l'autismo aumenta o se aumentano le diagnosi, in quanto si chiama autismo qualcosa che magari prima si chiamava in un altro modo, o si diagnosticano dei casi che prima non venivano per nulla diagnosticati, come ad esempio l'autismo senza ritardo mentale, la cosiddetta sindrome di Asperger, che può essere confusa con una stranezza, così, con una stravaganza di tipo sociale che però non viene identificata come una disabilità. Dottoressa, io starei a parlare con lei per un'altra mezz'ora, ma purtroppo abbiamo finito il tempo della trasmissione. Io la ringrazio per essere intervenuta in diretta, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Città Fucico, l'appuntamento è sabato prossimo alla stessa ora e sulla stessa radio, e come al solito l'augurio di una buona scienza a tutti.